Lo può tenere finché siamo in piena campagna, ma appena ci avviciniamo alla città si rimetterà quello nuovo. Bene, signora Victoria, rispose Lucas portando l'indice all'orlo del berretto a scacchi. Accanto a lui, sul sedile libero, era posato il berretto nuovo. Grigio perla, rigido e piatto, assomigliava a una focaccia e la visiera nera di pelle rigida riluceva nel buio come una scarpetta di vernice. Lucas gli lanciò uno sguardo torvo. È già una fortuna che possa guidare con la testa ora che non ho più i piedi, pensò. La divisa di gabardine lo stringeva al giromanica, al collo e alla vita, ma la sua tortura erano soprattutto le ghette. Salivano fino a mezza gamba e gli bloccavano la circolazione sotto l'incavo del ginocchio. Mosse gli alluci per tentare di far passare il formicolio. Erano le 7 del mattino, non c'erano praticamente che dei camion sulla strada. E quando capitava a Lucas di superarne uno, strombettava 2 volte per ringraziare. Chissà come ghignavano, si diceva, immaginando le battute degli uomini nelle cabine a veder correre nella luce dei loro fari il giardino pensile issato con tanta fatica sul tetto della Citroën. La corona era talmente grande che traboccava dal portabagagli, davanti, dietro e sui lati. Quando ci sarà il sole saremo sotto la pergola, commentò Luca guardando le palme che ricadevano con grazia davanti al tergicristallo. Doveva costare un occhio un armamentario simile, tutto di gladioli, rose bianche e lillà in pieno novembre. Dei lillà in novembre. Bisognerà che controlli all'arrivo. Devono essere lillà finti, artificiali, come i fiori che cuciono sui capelli. È buffo se è così. Tra 8 giorni non sarà, tutto sarà marcito a parte i lillà. Che senso ha sta roba? Che senso aveva da ieri? Non capiva. Perché non avevano preso il treno come previsto? Perché l'avevano spedito in quarta dalla vecchia Anita ad Abukir per prendere una lettera da portare precipitosamente dalle rammendatrici del 20° e perché al ritorno avevano deciso di botto di travestirlo da tenente di cavalleria? Dio, che casino! La grossa Ginette che prima aveva cercato nello stock. Non c'era un autista padronale della sua misura. Troppo grande e robusto era. Gli aveva fatto uno strano effetto ritrovarsi in mutande, come tutti quei pagliacci che non la finivano più di mettersi nudi in viale Chateaubriand. Vecchi, giovani, a guardarsi come tante frasche, a fare smorfie davanti agli specchi per ore intere. Ginette se l'era spassata a vederlo lì. Lui no. Almeno dalla Trey era stata una cosa franca, onesta e rapida. Divisa da lavoro? Certo, signore, veda nel reparto autista. Poteva essere il reparto pasticcere o il reparto idraulico, era lavoro e basta. Però aveva fatto male a cedere per le ghette. Gambaletti, aveva detto il commesso di La Trey. L'altro modello, senza gambaletti, gli piaceva di più, ma Ginette aveva telefonato. Grigio perla, gabardine, berretto, gambaletti, stivaletti e ruggine. Prendi su e porta a casa. Piegata in due era stamani Gildèse, quando si era bardato alle 5 in punto. Il tempo di andare a prendere la macchina al garage dell'Avenue de Neuilly e di caricare quella puttana di corona che se ne stava al fresco nel cortile del palazzo. Armelle era scesa in vestaglia con Gildèse. In tre non erano stati di troppo per fissarlo. L'eterno rimpianto di maschere bergamaschi. Con Armel che ripeteva: la povera signora, che neanche la conosceva. È vero che non la conoscevano neanche quella vecchia morta. Non l'avevano mai vista neanche in Rue Charles Lafitte. Il vecchio sì, l'avevano visto. Beh, Armel l'aveva visto con Maddy un bel po' di anni fa. Una sera in cui i suoi padroni avevano talmente berciato nel loro strogoto che Armel aveva avuto paura e aveva raccontato tutto a Gildèse. Superò un grosso camion con il rimorchio. Il camionista gli restituì i 2 colpi di clacson. Doveva approfittarne un giorno per andare a trovare gli amici in fabbrica. Pare che ci sia Maretta a Courbevoie. Lui ci provava una certa soddisfazione. Come se ne stava in pace ora, niente più riunioni, discussioni, delegati, coglionate di voti, tutto quel casino, insomma. In fondo aveva avuto un bel fondello che Le Gentil fosse stato nominato alla direzione di Clermont. In un certo senso era stato semmai Le Gentil ad aver avuto fondello, perché a Parigi, dopo quella storia del cugino assassino, beh, c'erano state un bel po' di chiacchiere nel palazzo e in fabbrica. A Clermont non seguono tanto quelle cose lì, non seguono un cavolo a Clermont, magari neanche sanno che c'è Maretta a Courbevoie. In ogni modo, a Clermont è come se fossero in una città nella città gli operai. Alla nascita hanno il loro bel bicchiere d'argento e al momento della pensione la medaglia d'oro. Tutto quello che succede nel frattempo succede fra i muri della ditta, sicché perché si muovano. Dio come ha frignato la signora Joël quando ha dovuto lasciare Neuilly. Un po' anche Gildèse, ma mica poi tanto. Era dura, Madame Le Gentil. Per fortuna che non aveva mai saputo di Gildèse e di lui al quinto piano, e questo era stato grazie alla signora Victoria che aveva saputo chiudere il becco. Ha giurato su Sant'Anna d'Oré. Fanno ridere queste Bretoni con la loro Sant'Anna d'Oré. Comunque era andata liscia. Era stata mica male la signora Victoria. Mica male anche che avesse ripreso la camera che andava con l'appartamento del secondo piano. Ne aveva conservato il godimento, come dicono. È proprio la parola giusta. Che faccia avevano fatto i nuovi inquilini? Sono troppo al verde per avere una donna, ma con i loro quattro marmocchi ne avrebbero ben piazzati due lassù, quei crucchi, crucchi ebrei per di più. E anche che avesse assunto Gildèse per la pulitura dei costumi, anche quello era stato mica male. Così non c'è stato niente di cambiato. Ma in ogni modo non si spiega il panico di ieri. Non si spiega neanche perché il Grandi non fa parte della comitiva. Con lui almeno si ghignerebbe un po' nella carretta. Non hanno smesso di bisbigliare dietro. Lui non dice niente, come al solito. Cominciava a spuntare il giorno. Nel retrovisore Luca incrociò lo sguardo di Nicole, sussurrava qualcosa all'orecchio di Maddy che non aveva l'aria di ascoltare. Poi di colpo si mise a ridere, svegliando Yannick che dormiva appoggiato allo sportello. «Che c'è di tanto buffo?» chiese Yannick con quella sua voce che per il sonno si era abbassata ancora di tono. «Oh, niente caro, è il dispiacere che ci rende nervose, riaddormentati. È ancora lontano, Luca?» chiese Nicole. «Una mezz'oretta, signora Victoria, se non finiamo prima nel fosso», rispose Luca sorridendo. «Oh, non sarebbe proprio il giorno adatto, mio povero Luca», sospirò Nicole Victoria. «Per quanto ci farebbero uno sconto alle pompe funebri», mormorò Maddy. «Ti prego», la riprese seccamente Nicole. Luca fece finta di non aver sentito. «Hanno l'aria stanca, ma non troppo triste», si disse lanciando un'altra occhiata nel retrovisore. «Era giorno pieno e ora le vedeva benissimo, stanche e un po' vecchie. Deve essere il nero. Sono sempre vestite di chiaro, di solito. E poi i capelli gli stanno proprio male, specialmente alla signora Victoria. Come può essere eccitante con quei suoi capelli che non finiscono mai? Ce ne devono essere dappertutto nel letto quando fanno l'amore. Perché far l'amore, anche se non sono più giovanissimi, pare che a volte lo facciano in pieno pomeriggio. Che Armelle resta bloccata in cucina, non osa più venire fuori e dopo deve rimettere a posto la camera come in un albergo a ore. Povera Armelle, lei che di far l'amore non ne vuol sapere. È buffo con le Bretoni. Gildèse ne aveva voglia appena arrivata a Parigi, mentre dai Le Gentil non si faceva. Con Armelle niente da fare, mentre al terzo piano c'è il casino. Per questo non è andata a dir niente. Victoria, le storie di sesso a lei piacciono, non c'era bisogno di farla giurare su Sant'Anna di Orè. Si è messa il cappello per la cattedrale. Avrebbe dovuto fare come lui, col suo berretto nuovo. Aspettare di entrare in città. Aveva quasi voglia di dirglielo, talmente la trovava brutta col suo paiolino. Alla Maddy il cappello stava meglio, ma la Maddy se ne fregava. Era una frigida quella, mica un amante. Del resto, per farsi il vecchio all'età che aveva quando aveva cominciato, beh, non era sicuro. Era stata la Joël a dirlo a Gildèse, perché era gelosa che Victoria l'avesse lasciata perdere. Non si sapeva però, sarebbe stata grossa, che si fosse messa in nero e tutto il tralalà per venire a seppellire la legittima consorte del suo vecchio amante. Si sarebbe stati a vedere fra poco, al momento delle smancerie, chissà che spettacolo. Com'era diventato divertente tutto il resto della vita da quando non sgobbava più in fabbrica. Ne aveva viste di cose in un anno, cose che non avrebbe mai sospettato se avesse seguitato il suo tran tran col cartellino da timbrare. Le girate per Parigi senza orario e anche le ore a Chateaubriand a riparare di qua, a riparare di là e a sbattere contro ragazze nude, perché non c'erano mica solo dei tizi che si spogliavano, per fortuna c'erano anche dei compensi. E poi sempre l'imprevisto, e questo proprio gli piaceva. Anche quel viaggio, a parte la coglionata del berretto e delle ghette e quel vestito che lo infagottava, quando e come e con che si sarebbe potuto pagare un viaggetto a Troyes? Anche a Troyes ci deve essere Maretta, c'è un sacco di fabbriche da queste parti, di indumenti intimi soprattutto. Toh, Durante la loro messa se ne sarebbe andato a fare un giro per i negozi, tante volte trovasse dei begli slippini reggiseni in tessuto indemagliabile per Gildese, indemagliabile nero, da divertirsi un po' al quinto piano. Dovevano essere meno cari sul posto vicino alle fabbriche. Mica l'avrebbero costretto ad assistere alla loro messa, eh? Una volta scaricata la corona li avrebbe lasciati in famiglia. Beh, in famiglia, se così si può dire. Lanciò un'occhiata nel retrovisore. Janek si era riaddormentato, Maddy guardava il paesaggio attraverso il finestrino con aria assente. Nicola aprì la borsa, tirò fuori il portacipri e si rimirò nello specchio. Oh, merda, non è possibile, non ci resisterò, disse sottovoce. Si tolse il cappello e con una mano rigonfiò le trecce che erano tutte appiattite. Maddy continuava a guardare fuori. Nicole prese un rossetto in borsa e cominciò a dipingersi con molta cura le labbra. Si sorrise nel portacipria, poi lo rimise nella borsa da cui tirò fuori un gran fazzoletto di mussola nera. Ho fatto bene a pensarci, sospirò legandoselo sotto il mento. Che baldracca! Ora si direbbe una Madonna, pensò Luca. Farà più semplice così, non ti pare? Disse Nicole dando una gomitata a Maddy perché la contemplasse. Figurati, così sarò io che sembrerò vestita a festa vicino a te. Hai l'aria di una vera polacca della malora, fece Maddy sbottando a ridere. Che stronza, pensò Luca. Fra poco ci siamo, signora Victoria. Dov'è che si va per prima? Chiese tirando fuori una pianta della città dal portaoggetti. Prima all'hotel della posta, dove ci aspetta l'avvocato di Bateau Ripoix. Poi dipende, rispose Nicole. Non sembrerà strano davanti a un albergo con la corona sul tetto? Chiese Luca. Oh, di corone sarà piena la città, mio povero Luca. La nostra madrina era amata da tutti. Svegliati, tesoro, si arriva, disse Nicole picchiettando la guancia di Yannick. Comincia a rompermi con i suoi, povero Luca. È la seconda volta che me lo sbatte in faccia. Pensò l'autista che l'idea di un appuntamento con l'avvocato di Bateau Ripoix aveva messo improvvisamente di pessimo umore. Sarebbe inciampato nell'autista di Dubatò e quello lì non lo poteva proprio soffrire. Un vero lacchè, pretenzioso e snob per di più, che salutava appena quando veniva in viale Chateaubriand e con i guanti oltre alla divisa. Merda, non avrei dovuto cedere, si disse ancora una volta a Lucas, aggiustando rabbiosamente il berretto della livrea. Erano nei sobborghi di Troyes. Assomiglia a Saint-Étienne, disse Maddy. Grandi. Non è con voi? Chiese l'avvocato di Bateau Ripoix che aspettava i viaggiatori nell'atrio dell'albergo. No, rispose Nicole. A che ora arriva? A dire la verità, non arriva affatto. Come sarebbe a dire non arriva? È malato anche lui? Perché? Ci sono già dei malati? Si informò Maddy che trovava Dubatò notevolmente freddo. C'è già un malato, sì. Signorina Varga, un malato grave. Ma non restiamo qui, ho chiesto che vi preparino un breakfast. Andiamo nel lounge. Octave, dica che servano i miei amici, la prego, e chiami la signora di Bateau Ripoix per dirle dove ci può trovare. Certamente, avvocato, disse l'uomo dalle chiavi d'oro. Dubatò fece strada. Si ritrovarono in un salone anglo-medievale, davanti a un gran caminetto dove ardeva un tronco d'albero. In un angolo, una vecchia signora scriveva su un piccolo secrétaire. Dubatò si assicurò che non ascoltasse e riprese la frase dove l'aveva lasciata. Un malato gravissimo, un uomo sopraffatto dal destino, annientato dal dolore, inebetito, dico bene, inebetito dal dolore. Il nostro povero Augustin non ha più pronunciato una parola da quando ha perduto la sua compagna. Ho passato una parte della notte alla Bonne Chanson con Liliane e Roger, né lei, né lui, né io, né il suo vecchio amico il dottor Roussin, che pure è quello che ha chiuso gli occhi della povera Marie-Jeanne, né Monsignor Ziegler, lo zio di Roger, venuto appositamente da Strasburgo per il servizio funebre, siamo riusciti a strappargli una parola. Non penso quindi che sarà in grado di assistere alla cerimonia, il che, tra l'altro, complicherà singolarmente le cose per... Ah, grazie, Gustave. I miei amici si serviranno da soli, lei può andare. Il cameriere si inchinò. Yannick si imburrò una tartina mentre Nicole riempiva le tazze di tè. Dicevo, complicherà singolarmente le cose per le autorità che hanno preparato il loro discorso pensando a un vedovo. Comunque, l'importante è che non gli venga un vero attacco. Il pericolo non è ancora scongiurato. Però l'ha riconosciuta, avvocato? Si informò Nicole guardando Maddy. Non si sa, rispose Dubatò. Era già così ieri quando mi ha telefonato oppure è successo dopo? Dopo che cosa, mia cara Victoria? Chiese dolcemente l'avvocato. Voglio dire, quando lei mi ha telefonato non aveva l'aria preoccupata. Saremmo venuti prima se avessimo saputo. Assolutamente, approvò Janek. Maddy non diceva niente. Ora più, ora meno, non avrebbe cambiato niente. Siamo davanti a un caso di prostrazione totale. Sarà passeggero o definitiva? Solo l'avvenire e la scienza ce lo diranno. Ieri non c'era ragione di accrescere il vostro dolore. Wait and see, aspetta e vedrai. Ma le cose stanno così e dobbiamo ben prenderne atto, il notaio Parbot e io. Dubatò tacque e li considerò tutti e tre. Il notaio Parbot? Chiese Nicole a mezza voce. È il notaio della povera Marie-Jeanne ed è su quel fronte che da ieri ci sono novità, rispose Dubatò in tono più basso mentre consultava l'orologio. Novità che riguardano appunto il nostro amico Grandi, che da quanto mi dite non viene. È proprio il colmo. Allora è davvero malato? Stressato, mormorò fievolmente Nicole. Capita a sproposito, perché cena di carne al fuoco il nostro Casanova? Esclamò l'avvocato Dubatò Ripoix guardando fissamente Maddy. Non vi immaginereste mai quanto siano stravaganti e imprevedibili le nostre signore di provincia. Bene, dato che ci resta pochissimo tempo, tanto vale leggervi la copia di una lettera che il notaio Parbot ha aperto davanti a noi ieri sera e che ci ha lasciati di stucco. Dubatò tirò fuori dal portafogli di coccodrillo un foglio piegato in quattro e si infilò gli occhiali di tartaruga. Nicole, Janek e Maddy avevano posato le loro tazze. Maddy contemplava il tappeto. Dubatò cominciò a leggere senza intonazioni, come se fosse stato un rapporto di polizia. Sana di corpo e di mente, oggi 2 novembre 1935, giorno dei morti, penso alla mia morte. Con queste righe affidate al notaio Parbot intendo modificare taluni termini del mio testamento redatto un anno fa e che troverete nel cassetto di destra della toilette della mia camera, nella mia cara casa La Bonne Chanson. Detto testamento resta immutato e valido per tutto ciò che riguarda i miei beni, sia immobiliari, sia in valori, azioni e gioielli, tranne per quanto riguarda la società Maschere e Bergamaschi, di cui intendo disporre diversamente dal previsto. Gli scopi artistici di tale società, di cui sono la sola proprietaria, hanno abbellito da lontano i miei vecchi giorni di sposa, figlia e nipote di maglieristi. Lascio quindi Maschere e Bergamaschi al signor Alex Grandi. Questo giovane artista mi sembra più adatto a continuare la mia opera di quanto non lo sarebbero le persone della mia famiglia o di quella di mio marito. In vita sono stata molto incompresa. Fatto a Troyes il 2 novembre 1935 alle ore 22. Ecco, disse l'avvocato Dubatò Ripoix togliendosi gli occhiali. E questo, agitò il foglio prima di ripiegarlo, non siamo stati in grado di comunicarlo al nostro malato grave, che è il solo a non saperne niente. Con Alex, naturalmente. Stupefacente, no? Jean Gaëtan, siamo molto in ritardo, annunciò una voce femminile. La signora Dubatò Ripoix attraversava il lounge. Capitava a proposito. Tutti si alzarono. Spero che siate coperti bene, la cattedrale sarà glaciale, disse la signora baciando quattro volte Nicole e Maddy. Janek le baciò la mano. Quanto al cimitero? Lo sanno, li ho già avvertiti, Jennifer. La interruppe l'avvocato in tono seccato. Andiamo, figlioli. E prese la testa del gruppetto verso l'atrio. Accidenti! Lo chiama avvertire, imprecò Nicole tra i denti. Era livida. Solo Maddy la sentì. Mio povero Tintin, mormorò. Aveva uno strano sorriso, triste e tenero. 2 ore e 3 quarti, ma non c'era nessuno sulle strade, spiegava Janek a Jennifer Dubatò che si voltò per aspettare Nicole e Maddy. Grandi ha preso il treno? Chiese mentre si ritrovavano tutti davanti al banco della portineria. Nessuno le rispose. L'avvocato Dubatò Ripoix aveva ripreso la parola. Non ci disperdiamo, raccomandò lanciando un'occhiata attraverso i vetri della bussola. Riconobbe Luca al volante della Citroën. Non ci disperdiamo, in città ci perderemmo. Prima tappa la Bonne Chanson, naturalmente, ma prima di tutto propongo di liberarci di questa sublime corona. Quindi prima fermata sul sagrato della cattedrale. Noi ci mettiamo in testa. La vostra macchina ci segue. Hubert darà una mano al vostro lucidatore per scaricare i fiori che consegneremo agli organizzatori affinché abbiano il posto che meritano sul catafalco. E in cammino per la casa mortuaria dove lasceremo le macchine per seguire a piedi la spoglia della nostra vecchia amica. Invece, raggiungeremo il cimitero con le nostre auto. Dovranno quindi seguire il corteo a distanza e al passo per aspettarci ai piedi della cattedrale. Che cosa ne pensate? L'avvocato di Bateau Ripuas non aspettò la risposta e seguitò: Octave, sia tanto gentile da avvertire il mio autista che andiamo. Il signor Hubert è nella stanza dei corrieri. Lo chiamo, avvocato, disse il portinaio, sollevando la cornetta del telefono interno. Mi capita spesso di dover difendere delle cause in questa regione e ho finito per avere anche qui le mie consuetudini, dovrei dire addirittura le mie manie, come a casa. Le circostanze sono poco propizie, ma mi dispiace che non abbiate veramente assaggiato la marmalade con il vostro breakfast. Octave la fa venire apposta per me da Londra, vero, mio bravo Octave? Per lei, avvocato, e per la signora, disse Octave inchinandosi. E per la povera signora Leblanc, quando veniva a prendere il tè. Spero che i fiori della direzione siano stati consegnati alla Bonne Chanson, sospirò con uno sguardo interrogativo e desolato. Sì, sono arrivati ieri. La signora Ziegler ne è stata molto commossa, disse Jennifer du Bateau Ripuas. Figurarsi, pensò Maddy, figurarsi se avevano la testa ai fiori, i diseredati. Non l'avevano fatto apposta. Le dépossédées, il titolo del vecchio spettacolo, le era proprio sfuggito. Torno subito, disse, reprimendo a fatica una voglia pazza di ridere, e si diresse verso una porta a destra dell'ascensore che portava scritto Signore. Nicole la seguì. Saggia precauzione, durerà per ore. Viene, mio caro, disse l'avvocato di Bateau Ripuas a Yannick, che lo seguì verso la porta di sinistra che portava scritto Signori. Ti pare proprio che sia il momento, esclamò Nicole, scoprendo Maddy che singhiozzava dal ridere davanti allo specchio della piccola anticamera della toilette. I diseredati, le depossedee, singhiozzava Maddy. Non ti dice niente? Nicole alzò le spalle. Non si ricorda neanche, si disse Maddy, incontrando nello specchio lo sguardo duro, assente e deciso di Victoria Jean. Non si ricorda di niente. E si rese conto che non condividevano la stessa memoria. Si sentì abbandonata ed ebbe voglia di piangere su Saint-Étienne e su sua madre, sull'amore perduto di Alex, sul dolore di Tintin, sul sorriso intravisto della buona Marie-Jean, sulla propria carriera fallita, sullo sguardo cattivo di Du Bateau, sulle proprie connivenze con Agnès, la livrea di Lucas, l'assurdità delle sepolture e le rughette che si scavavano intorno alle sue palpebre. Vieni, disse Nicola, cui voce coprì la cascata discreta dello sciacquone. Maddy la seguì senza dir parola. Le due macchine si misero in moto insieme. Il signor Hubert, che ebbe l'aria di non riconoscere Lucas, lo aiutò a scaricare la corona davanti alla cattedrale. Lucas si rimise al volante e fu a quel punto che Maddy si decise. Preferisco aspettare qui, disse bruscamente e scese dalla macchina proprio mentre si avviava. Lucas frenò. Non perdiamo gli altri, fece Yannick. Lucas ripartì. Maddy ebbe il tempo di vedere Nicole che si voltava e la interrogava attraverso il lunotto posteriore della Citroën che si allontanava. Rimase un momento immobile. La stazione, per favore, chiese una vecchia coppia che si dava il braccio. La signora teneva un mazzolino in mano. Le indicò a bassa voce la via. Maddy la ringraziò nello stesso tono e seguì la coppia con lo sguardo, mentre a lenti passi si avviava verso gli immensi tendaggi neri sollevati, sormontati da uno stemma argentato cifrato MJL. Fasci di fiori e corone erano disposti ai due lati del portone ogivale e prima di addentrarsi nella grande navata della cattedrale Saint-Pierre e Saint-Paul, la volgeva la corona più grossa, maschere e bergamaschi, brillava con tutto il suo oro sui ciottoli del Medioevo. L'uomo e la donna si accordarono con lo sguardo, non gli diceva proprio niente. Madi aspettò che fossero scomparsi, poi si avviò, con passo deciso, nella direzione che le avevano indicato. Amore mio, ti scrivo dalla birreria della Gare de l'Est. È una stazione molto triste, che prima di entrare nel caffè ho guardato bene, quel grande quadro dove si vede la partenza dei soldati nel 14. Ho perfino creduto di riconoscere papà. Sono un po' ubriaca, ho bevuto 3 cognac. Quando avrò finito la lettera la imposterò e tornerò a casa a uccidermi. Durante le ore di viaggio vi ho rivisto, tutti voi che ho amato, ma lo posso dire a te solo. Per quanto cercassi di pensare agli altri, eri sempre tu che tornavi, tu nell'ombra, dietro una quinta, con le maniche arrotolate sopra il gomito, che mi sorridevi per la prima volta quando ancora non ci conoscevamo. Io leggevo il testo sul palcoscenico, quando farfugliavo e tu mi sorridevi. Tu, la prima volta che ti ho visto. Ti ho perduto per non perdere Tintin. Povero Tintin, che amava solo la sua vecchia moglie, che ha perduto. E io, che perdo tutto, io che ti perdo oggi per sempre, perché non mi crederesti mai se adesso ti dicessi che non ho mai smesso di amarti. Te lo immagini come parrebbe serio nel momento in cui tutto sta per essere tuo? Ho riflettuto in treno. Ho proprio sbagliato tutto. Non mi metterò a sbagliare anche la mia morte, perché è il solo modo che mi resta per dirti la verità e perché tu mi creda. Addio, amore mio. Non mi dimenticare. Maddi. PS, riapro la lettera che avevo già chiuso. Mi hanno dato un'altra busta e il cameriere mi sta guardando in modo strano. Ti darà disturbo, ma voglio che tu solo mi porti al cimitero del tuo quartiere, senza fronzoli e in una cassa di abete. Tu solo, neanche con Ginette. Per consolarla le regalo il mio zibellino che le faceva tanta gola quando eravamo nell'Autrichien e le serrurier. Per mia madre non ti preoccupare, è morta 2 anni fa. Non avevo detto niente a nessuno. Maddi pagò i cognac e il francobollo, lasciò una grossa mancia e uscì sotto lo sguardo beffardo del cameriere. Infilò la busta nella cassetta delle lettere, vicino all'uscita dei viaggiatori. Prese un taxi e tornò a casa. Passando, disse il suo nome alla portinaia, chiuse la porta a doppia mandata, lasciando la chiave nella serratura. L'indomani mattina, verso le 11, la portinaia della Rue Pergolese fece forzare la porta dai pompieri. Non c'era sangue sul letto, solo una piccola aureola intorno al foro annerito come da una bruciatura di sigaretta nel crespo rosa della camicia da notte. Madi aveva gli occhi chiusi e il piccolo revolver era rimasto nella mano che il forte colpo aveva rimandato sul lato destro del letto. Sul comodino c'erano 2 righe scritte a grosse lettere stampatello dentro il coperchio di una scatola da scarpe. Salve, sono stufa. Non è colpa di nessuno, di nessuno, nessuno. È l'una del mattino. La portinaia raccontò che le aveva trovato una voce bizzarra la sera prima, quando era tornata verso le 22, e assicurò che nessun estraneo alla casa era venuto durante la notte. Il medico legale confermò il suicidio. Il pronto intervento trasportò il corpo all'obitorio. La lettera impostata alla Gare de l'Est fu consegnata a mezzogiorno. Alex la trovò infilata sotto la porta del suo studio della Rue Campagne Première verso le 4. Alex si rialzò, si asciugò le mani con il fazzoletto, indietreggiò di un passo e contemplò le 12 piantine di Non ti scordar di me che aveva trapiantato nella terra fresca, delimitato da una ringhiera di legno dipinta di nero, incastrato tra 2 cappelle di pietra. Il piccolo rettangolo aveva l'aria di un giardinetto in mezzo a una città morta. Si baciò la palma della mano e la posò sull'iscrizione che accarezzò dolcemente. La vernice bianca era ancora fresca come la terra rivoltata. Tirò fuori di nuovo il fazzoletto per cancellare la leggera traccia che la sua carezza aveva lasciato sul fondo nero. Con un po' di saliva fece ridiventare nitidi caratteri così accuratamente disegnati. Madeleine Vergugnin, 1904-1935. Sembra la lavagna di una scolara, si disse Alex. A grandi passi, senza voltarsi, si avviò tra le tombe per raggiungere il viale centrale del cimitero di Montparnasse. Dovette farsi da parte per lasciar passare un corteo funebre di gran lusso E per la prima volta in 48 ore pensò a Troyes. A Troyes e a tutti coloro ai quali aveva rifiutato di parlare e che aveva rifiutato di sentire prima di aver fatto le cose come le aveva volute Maddy. Il corteo non finiva più. Esausto per non aver dormito e aver bevuto troppo caffè, tentò di avanzare controcorrente. Un uomo in cilindro lo respinse. Un po' di rispetto, giovanotto, credette di sentire Alex. Non aveva davvero voglia di mettersi a litigare. Aspettò e contemplò le tombe che lo circondavano. Una, specialmente, richiamò la sua attenzione. Era un monumento tenuto con estrema cura. Infiorato il giorno prima o la mattina stessa, sotto un'iscrizione in cirillico, decifrò il nome inciso sulla pietra: Simon Pietriora. Gli disse vagamente qualcosa, una conversazione ancora recente. Ma considerando le date, 1879-1926, non gli disse più niente, il che del resto non aveva nessuna importanza. Stanco di aspettare, tagliò attraverso le tombe e uscì dalla porticina di Rue Froidevaux. Tornato in Rue Campagne Première, non rimise il ricevitore sulla forcella, non aprì la posta che si accumulava nell'ingresso da 2 giorni, andò a letto per poter finalmente dormire. Si svegliò 6 ore dopo, fece la doccia, si spazzolò accuratamente le mani per togliere la terra che gli si era seccata sotto le unghie, si fece la barba, si mise una camicia pulita e riagganciò il telefono. A parte il fatto che erano le 5 del pomeriggio, fece tutti i gesti che si fanno la mattina per cominciare una buona giornata. Non se ne stupì. Tutto si era fermato nell'istante in cui aveva trovato la lettera. Tutto si rimetteva in moto ora che aveva compiuto quello che gli domandava la lettera. Era di ritorno. Tornava da lontanissimo, da 48 ore vissute in qualche altrove. Straziato, stupefatto, incredulo, straniero in paese straniero. Si era guardato fare cose strane, ordinate da qualcuno di assente la cui partenza sarebbe rimasta per sempre inesplicabile. E poiché cominciava una nuova giornata, andò davanti alla porta per raccattare le buste che pesticciava da 2 giorni. Sotto diversi cataloghi scoprì 2 telegrammi, tutti e due provenivano da Troyes. Erano stati spediti a distanza di qualche ora e non si assomigliavano. Il primo che aprì era firmato di Bateau Ripuat ed era partito 2 giorni prima, verso le 13. Situazione nuova, presenza indispensabile, rallegramenti, l'aspettiamo, Hotel de la Poste. Il secondo era partito lo stesso giorno verso le 17 ed era semplicemente firmato Victoria. Fuga Maddy imperdonabile. Prego rimandarla o meglio accompagnarla. L'aspettiamo. E poi ne scoprì un terzo, più una lettera di Ginette spedita per posta pneumatica. Suo telefono guasto. Si prega a chiamare. Impossibile contattarla. Chiami. Ma a partire da quel momento sapeva, era quando lui stesso aveva interrotto il contatto. E giacché l'aveva ristabilito, decise di far di nuovo passare la corrente e compose sul quadrante il numero di Du Bateau Ripuat. Aveva comunque voglia di sapere a che titolo meritasse i suoi rallegramenti, perché la sua presenza fosse stata ritenuta indispensabile. Sull'orlo della buca in cui veniva calata la bara di mogano di una vecchia signora che per lui non era nulla, nell'ora in cui si accingeva lui a seppellire il corpo di una donna giovane che a suo tempo aveva molto amato. Lasciò suonare per un pezzetto, riattaccò, ricompose il numero senza risultato, si ripromise di chiamare di nuovo l'indomani, si infilò l'impermeabile e uscì. Camminò fino alla cupola, dove l'aspettavano, senza aspettarlo, quelli che ritrovava quasi tutte le sere alla stessa ora. «Eri in viaggio?» gli chiese Rodriguez, il pittore, senza alzare gli occhi dal giornale. «Una specie di viaggio», rispose Alex, ordinando un doppio scotch. Il signor Vladimir Ulianov al telefono. Il signor Ulianov da parte del signor Leon Bronstein. Il signor Ulianov al telefono, ripeté la voce della cassiera nell'altoparlante. Non si stancano mai della loro trovata, sospirò Alex, salutando da lontano un tizio giovane e bello come un gitano che tutti gli sguardi seguirono mentre si dirigeva sorridendo verso la cabina. Ci sono delle varianti. Ieri era il colonnello Laroque, fondatore dell'associazione Croix de Feu, sciolta dal Fronte Popolare, che chiedeva del capitano Bordure, disse Rodriguez ripiegando il giornale. Per poco non è finita male. C'era una tavolata di Croix de Feu in fondo. Vado a fare una telefonata, disse Alex, pensando di colpo a Rue de la Mare che aveva lasciato senza notizie da 2 giorni. Nello stradario trovò il numero dell'Alverniat. Il bel giovanotto gli cedette il posto in cabina. Sembri proprio contento, gli dichiarò Alex. Capirai. Mio fratello mi ha appena detto che abbiamo piazzato la nostra sceneggiatura. Si mangia insieme? Va bene, avverti Rodriguez, arrivo, rispose Alex chiudendo la porta della cabina. Dall'Alverniat chiese se qualcuno potesse fare una comunicazione alle signore Sonia e Olga al numero 58. L'Alverniat gli passò a Barschi, che era proprio al banco. Oh, che non si preoccupino, ho avuto una seccatura, ma va tutto bene, passerò domani. Domani senza fallo, ripeté Barschi. Glielo vado a dire. Così domani la vedrò anch'io. Forse ho un affare per lei. Me lo racconterà domani, caro Isidor. Saluti. Alex riattaccò e se ne andò a ritrovare Rodriguez e il doppio scotch che non aveva ancora toccato. A mezzanotte erano sempre a tavola da Cherami in Rue Jacob. Laurent e Louis Verdon si erano dati il cambio per raccontare la loro sceneggiatura. Rodriguez e Alex ascoltavano. Era una storia bella, semplice, triste e gaia che si svolgeva molto per le strade, un po' in una camera, sulle rive della Marne, in una fabbrica di biciclette e sui ciottoli di Etretat, in Normandia. Era anche una storia d'amore che durava un sabato e una domenica tra un ragazzo e una ragazza che si lasciavano il lunedì. Ti farei volentieri i costumi, disse Alex a Laurent Verdon, che dei due fratelli era quello che si sarebbe occupato della regia. Non saranno in Pizzi e Merletti le mie donne, sai? Gli rispose Laurent, sorridendo con i suoi occhi verdi. Siete troppo chic e troppo eleganti per noi, da maschere. Non sono più a maschere e ho rotto i ponti con i Pizzi, disse Alex con tono neutro. Gli altri tre si guardarono. Ci fu un momento di silenzio. E non ce lo dicevi? Esclamò Rodriguez. Quando è che ti è capitato questo felice incidente? Oh, da pochi giorni. Non è un incidente, ancora meno un incidente felice, non ho voglia di parlarne. Ci fu un nuovo silenzio. In compenso ho voglia che tu mi parli ancora del vostro film, Laurent, fece Alex. Ci saranno delle donne nella tua fabbrica di bici? Qualcuna, perché me lo chiedi? Così, per via di Saint-Étienne, rispose Alex.